che cazzo fai, signora Becker? Ma non te stai raggiungendo? Mi stai mettendo a nota? Aiuti scavazzo di coppa, si tu non la finisci. Professoressa, tu sei la più guanza, che ci fai punire a tutti a quanto ti spelle. Ma quando ti prendono gioco di te, ti sembra questo di comportarsi da vera professoressa? Ma che cazzo dici, testa di merda? Quando sei crudele ti uccidi dall'inferno. Non è sempre che tu mi devi sempre rompere i coglioni per una cazzo di cosa. Ma stai zitta, signora Becker, che lei sia una sfigata da qualche prof. Che cosa ti fai adesso? Adesso ti faccio le corna per poi attaccarle in testa. Mamma mia, oh cazzo, mi fai venire l'ansia. Tu studente che ti comprometti con gli altri, ho sentito i tuoi genitori che ti ammazzano e ti fanno incazzare come uno sfigato. Ascoltami bene, professoressa, sei la più delinquente di uguaglianze da fare in matematica. Tu con la storia e geografia e matematica urli così forte da fare inserire la merda in resta. E non la smetti che mi dissi così, quando te ti arrabbi tu.